Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. L'attacco è arrivato dal mare. Sono giovanissimi, ma sono riusciti a colpire il cuore di Mumbai, ex Bombay. Quando il bilancio non può dirsi ancora definitivo, si contano già 151 vittime, tra cui un italiano, e 327 feriti. È l'11 settembre dell'India, concordano gli osservatori internazionali. Mercoledì 26 novembre, lasciata a bordo di gommoni la loro nave base, un gruppo di una ventina di terroristi ragazzini sferra contemporaneamente l'attacco in 10 differenti punti della città. Bersagli principali, gli alberghi a 5 stelle, l'Oberoi e il Taj Mahal. Entrano, uccidono, prendono in ostaggio decine di persone. Diranno di essere i Mujahideen del Deccan, una sigla fino ad ora sconosciuta ma ricondotta alla galassia qaedista. Quando, dopo 48 ore di combattimenti, i due alberghi saranno ormai bonificati con la cattura e l'uccisione dei terroristi, la crisi si sposta nel centro degli ebrei ultra-ortodossi Shabad, dove estremisti islamici tengono in ostaggio un gruppo di persone. I soldati delle forze speciali indiane intervengono, si tornano ad udire esplosioni e sparatorie, mentre gli italiani rimasti bloccati vengono finalmente liberati. Adesso bene, è come se mi avessero restituito la vita, quindi bene. Sono stati momenti che hai appeso la tua vita al nulla. Stiamo iniziando a sentire delle esplosioni. Bloccata per ore nel Taj Mahal anche Erika Di Giovancarlo, direttore dell'ICE a Mumbai. È una città che molto lentamente cerca di riavviarsi alla normalità, ma è chiaro che l'atmosfera è molto pesante e ci vorrà del tempo. La situazione è stata ancora tesa. Lei era lì nel momento in cui c'è stato questo assalto. Passata, diciamo, la prima paura, che cosa ne è rimasto di questi momenti così drammatici? È strano dirlo, ma credo che la paura io l'abbia sentita più quando sono uscita, quindi quando sono tornata a casa, che mi sono veramente resa conto di cosa stesse accadendo, piuttosto che quando ero chiusa dentro quella sala. Non ho potuto evitare di pensare alla strage dell'11 settembre. Il paese l'ha vissuta comunque come il proprio 11 settembre, come si dice? Esatto. Sì, assolutamente sì. Lei quanto tempo è rimasta all'interno dell'albergo bloccata? Siamo riusciti ad uscire verso le 4 del mattino, dopo che l'esercito era entrato nell'albergo e quindi era cominciata la guerriglia, diciamo, tra esercito e terroristi. Quello è stato il momento in cui, essendo i terroristi distratti per difendersi dall'attacco dell'esercito, era il momento più adatto per tentare di evacuare. L'avete deciso voi? Vi hanno dato una comunicazione dicendovi che quello era il momento? E come è andata la vostra uscita, sì, dall'albergo? Questo personale della sicurezza che era con noi nella sala ci ha sempre informato su cosa stesse accadendo. Che cosa vi raccontava? È stato molto, molto professionale, si è sempre rivolto a noi con estrema calma e tranquillità. Ci dava notizie anche terribili, perché chiaramente ci comunicava che c'era un'esplosione all'Oberoi, che c'era un incendio in corso, che la old wing del Taj era in fiamme. Insomma, chiaramente non ci risparmiava nulla, ma ce lo diceva in modo tale da non trasmetterci ansia. Però ecco, al momento dell'intervento dell'esercito, loro ci hanno chiesto in realtà se ci hanno illustrato la situazione, ci hanno detto che poteva essere il momento migliore per scappare, e ci hanno però fatto presente che l'operazione era delicata e quindi dovevamo comunque fare tutto molto in silenzio, perché essendo i terroristi all'interno dell'albergo avrebbero potuto sentirci e in quel caso chiaramente avrebbero potuto attaccarci. Vi avevano detto che tipo di terroristi potessero essere? No, loro sin dall'inizio li hanno chiamati sempre terroristi, questo era il termine che usavano. Non hanno dato nessuna informazione che tipo di terroristi potessero essere, per quale motivo fossero lì, era proprio una cronaca dei fatti, nient'altro. E in questa cronaca c'era anche il racconto, il resoconto delle persone che erano state uccise? No, non ci dicevano nulla, non ci hanno mai informato sull'uccisione persone, anche suppongo per non impressionarci, chiaramente, perché si sarebbe probabilmente diffuso il panico. Ma voi comunque era un timore a cui pensavate, sentivate gli spari, quindi in qualche modo lo mettevate in conto? Beh sì, devo dire, in principio quando gli spari e le esplosioni non erano udibili, sì, abbiamo pensato a un attentato, ma sinceramente quando ci si trova in mezzo si pensa sempre che non sia una cosa così grave o importante quale poi quella che si è rivelata. Noi però pian piano chiaramente ci siamo resi conto della situazione, perché abbiamo cominciato a sentire le esplosioni, abbiamo cominciato a ricevere sms, telefonate. Chiaramente quando la notizia si è diffusa in tutto il mondo siamo stati bombardati di telefonate, quindi eravamo ben al corrente di quello che stava succedendo, però non avevamo capito che era un'azione così grande, così diffusa, questi 11 attacchi in tutta la città non li immaginavamo neanche. E nel momento in cui siete usciti dall'albergo, uscendo, ecco, che tipo di scene vi siete trovati davanti agli occhi? Noi siamo usciti dal retro dell'albergo, abbiamo immediatamente realizzato che la città era deserta, perché non si vedevano auto, chiaramente, non si vedevano passanti, niente, le strade erano vuote e abbiamo solamente visto i militari, l'esercito, e allora un po' più in là si è cominciato a vedere qualche persona, qualche tassista che ci ha dato anche soccorso, però è stata un'impressione molto strana, perché ecco, una città che non ho mai visto. Una città fantasma un po'. Esatto. Quante persone eravate bloccate tutte insieme? Nella sala noi eravamo circa 150 persone, 40-50 eravamo al ristorante e il resto, un centinaio circa, erano in questa sala dove si stava svolgendo un evento. Sono stati loro a consigliarci di andare nell'altra sala, perché il ristorante aveva le pareti di vetro e quindi teneva forse meno sicuro, nonostante fosse un piano molto alto. Siamo passati attraverso le cucine, siamo entrati in questa sala dove ci hanno fatto posizionare al centro della sala, quindi lontano dalle pareti, lontano dalle finestre, e ci hanno suggerito di sederci a terra con le luci soffuse e di stare in silenzio, anche per evitare di farci sentire. E così quindi in silenzio voi avete vissuto queste ore con l'eco lontana, e non so neanche fino a che punto lontana, di spari ed esplosioni? Purtroppo sì, non era molto lontana l'eco, perché nonostante noi fossimo dalla parte opposta, chiaramente la sentivamo molto bene. Eravamo al piano alto, tra il 25esimo e il 30esimo piano, nella tower, mentre invece gli attentati si stavano svolgendo nella Old Wing. Immagino ci fossero persone di nazionalità differente. Voi avete avuto in qualche modo sentore del fatto che ci fosse una caccia in particolar modo a persone di nazionalità americana o inglese? Eravamo tutti chiaramente terrorizzati, ma non sapevamo esattamente chi cercassero. Circolavano poi delle voci, questa ricerca di cittadini americani o inglesi, però devo dire erano voci chiaramente non dette assolutamente dal personale della sicurezza, ma qualcuno che aveva ricevuto degli sms, quindi devo dire la verità, io non ho dato molto ascolto la maggior parte di noi veramente non ha dato molto ascolto a queste voci, siamo rimasti uniti e tranquilli. Lei è tanto tempo che vive e frequenta Bombay? Io sono qui a Bombay dall'inizio del 2007, sì, sono quasi 2 anni. Quindi abbastanza per poter immaginare che tipo di effetto potrà avere questo tipo di attacco sulla città che è il cuore finanziario dell'India. Molti analisti dicono che sia stato proprio questo l'obiettivo, andare a colpire le possibilità di espansione anche economica e di attrazione turistica e finanziaria della città. Può darsi, certo è stato un colpo molto, molto forte, credo che gli abitanti di Bombay non fossero assolutamente preparati, però nonostante fossero aumentate le misure di sicurezza dopo gli attacchi, dopo le esplosioni avvenute a Delhi lo scorso settembre, io credo che fosse semplicemente una misura così precauzionale, ma nessuno veramente poteva immaginare cosa del genere e sicuramente è un evento che ha cambiato anche il modo di pensare, secondo me, di tanti abitanti di Bombay. Sì. In che senso, in che direzione? Purtroppo credo che si sia diffuso un paura, un terrore e gli stessi effetti che l'11 settembre ha avuto per gli americani. Attacco al cuore finanziario dell'India, dunque. C'è dietro la mano di Al-Qaeda o quanto influiscono anche le tensioni col Pakistan e ancora quanto è in pericolo l'Occidente? Storielle. Storiacce. Chi ha colpito l'India al cuore? Chi c'era dietro quegli attacchi a Mumbai che hanno ucciso almeno 150 persone e seminato il panico, come ci hanno raccontato nella prima parte della trasmissione i testimoni rimasti ostaggio per ore? È Al-Qaeda e l'allarme deve essere alto anche in Occidente? Pur riconoscendo l'ombra di Al-Qaeda, riconduce gli attentati soprattutto alle tensioni di quell'area. Stefano D'Ambroso, PM di Milano, impegnato a lungo in inchieste sul terrorismo islamico e ora responsabile dell'Ufficio per le attività internazionali del Ministero della Giustizia. Sicuramente si tratta di un attentato con una struttura dietro e con un'organizzazione dietro. Questo fa indurre la maggior parte degli analisti a ritenere che lo stile sia quello di Al-Qaeda, ma io ho grosse perplessità nel ritenere che la matrice originaria, la centrale che ha ordinato questo tipo di attentato così ben strutturato sia direttamente Bin Laden, al-Zawahiri e coloro che sono rimasti a coordinare questo gruppo che ancora esiste, questo gruppo di jihadisti. Quindi io ritengo che si tratta di una vicenda molto più legata alle dinamiche interne dell'India e alle dinamiche che vedono oramai India, Pakistan, Kashmir coinvolte e con qualche possibile riferimento anche a influenze che arrivano dall'Afghanistan. In sostanza le tensioni locali dell'area tra India e Pakistan verrebbero in qualche modo accentuate in una ottica che riconduce tutto un po' alla galassia di Al-Qaeda? Al-Qaeda evidentemente spende la sua presenza in questa vicenda pakistano-indiana, è indubbio, è un centro di riferimento politico-religioso troppo importante per non poter essere di volta in volta coinvolta nelle conflittualità di quell'area, però ripeto, non è una tipica questione qaedista, non sono i valori occidentali in quanto tali a voler essere ad essere stati aggrediti con questa azione, mi sembra di poter dire che invece qui è un attacco all'India e all'economia indiana, all'economia del turismo che è stata direttamente attaccata. E la ricerca di ostaggi di nazionalità americana e inglese? Ma questa sicuramente è una variante che è stata considerata nell'attentato agli hotels. Sicuramente c'è una commistione di interessi, ma dove la prevalenza rimane l'attacco all'economia indiana, con una naturale estensione anche alla presenza di occidentali, perché questo chiaramente incrina, a mio parere, anche la possibile attrazione dell'India da parte del turismo che proviene proprio dai paesi occidentali. Quindi cercare in un certo modo di isolare l'India rispetto anche ai circuiti internazionali e occidentali di investimenti? Ma in parte entreremmo già in un'analisi fin troppo dettagliata delle strategie politiche di questi gruppi, mentre ricordo soltanto che non è la prima volta che attentati di natura terroristica collegabili allo jihadismo internazionale sono stati effettuati proprio su siti turistici. Quelli che più ci hanno interessato e che ricordiamo quasi tutti sono quelli dell'estate del 2005, per esempio in Egitto, in alcuni villaggi turistici dove l'attentato era chiaramente di natura jihadista in senso lato, non qaedista in senso stretto. Così come anche Bali è stata direttamente attaccata non in quanto Bali, ma in quanto luogo dove il turismo thailandese sviluppa molti interessi. Quindi soprattutto i turisti prima di tutto. E riguardo invece alla grande potenza anche di armi e anche alla grande capacità organizzativa di questi gruppi, che numericamente non erano così tanti ma hanno saputo prendere in ostaggio un po' il cuore della città. Questo è il dato che veramente deve far preoccupare le organizzazioni internazionali che si occupano della pace in quei luoghi. Quindi mi riferisco soprattutto a Nazioni Unite e NATO. Questi sono soggetti che hanno avuto esperienza di guerra, indubbiamente. L'esperienza di guerra più vicina a quell'area è proprio quella pakistano-indiano, è proprio quella da ultimo del Pakistan che ha visto le vicende del Kashmir coinvolte, e ripeto, non ritengo siano da sottovalutare anche influenze del qaedismo più vicino a Bin Laden, che è quello oggi attuale presente in Afghanistan, dove però lì l'interesse è più legato al traffico internazionale di droga piuttosto che, ripeto, all'affermazione di una leadership religiosa musulmana. E per quanto riguarda invece i paesi occidentali, c'è un pericolo anche per noi? Questa è una domanda a cui mi piacerebbe poter rispondere immediatamente, non ho la palla di cristallo, però voglio essere ottimista. Questo è un attentato che ha riflessi, riverberi, soprattutto locali, nel senso di un'area molto grande, qual è appunto quella pakistano, indiano, afghano che stiamo considerando. Sulla Europa io ritengo che un tipo di attentato così strutturato come quello che abbiamo sotto gli occhi in queste ore sia difficilmente realizzabile. Oggi in Europa sono possibili attentati molto più vicini a Madrid o a Londra, quindi gruppi abbastanza sparuti che hanno organizzato velocemente un attentato senza grande strutturazione piuttosto che attentati così ben strutturati. De Gennaro parla di allarme alto anche in Occidente. Ma De Gennaro conosce molto bene quest'area, per cui ritengo che sia fondato il richiamo che lui fa, anche perché va detto in tutta franchezza, se non vi fossero emergenze anche internazionali come quella di queste ore, noi saremmo portati un po' a rimuovere la consapevolezza dell'esistenza di questo fenomeno, che ancora è fortemente attuale. Questo non deve voler dire tenere alto un allarmismo che non aiuta nessuno, non aiuta le forze di prevenzione, non aiuta gli apparati che devono prevenire questo tipo di attività di questi gruppi, ma altra cosa invece quell'opera di rimozione o di quasi silenziosa metabolizzazione che c'è stata in questi ultimi 3 anni. In assenza di attentati in Europa, da Londra 2005, ci siamo lasciati convincere che questo è un fenomeno che esiste, ci si può convivere, ma che non deve destare allarmi superiori. Così non è. Il fatto che alcuni ostaggi, pare, si dica che dicendo che erano italiani in qualche modo hanno avuto un lasciapassare o comunque un minor pericolo rispetto agli altri di nazionalità anglosassone, che vuol dire? Che il nostro paese rispetto ai gruppi terroristici gode di una protezione, ha a che fare con la guerra in Iraq e in Afghanistan? Ecco, questo da un lato sono contento che sia andato così, dall'altro non posso non considerare che la virulenza nei confronti degli inglesi, che sono collegati strettamente agli americani per l'attivismo che hanno manifestato soprattutto in tutta l'attività, prima in Afghanistan con Enduring Freedom e poi in Iraq, ecco, l'associazione Inghilterra, governo americano busciano, porta a vedere gli inglesi come un obiettivo da colpire in una maniera più forte. Numerose indagini hanno attestato, diciamo, il passaggio di mujahideen o di diciamo così aspiranti kamikaze verso luoghi di crisi in Iraq, in Afghanistan, passando anche per l'Italia o per l'Europa. Ci sono mai state indagini che hanno portato alla ribalta l'India? No, in una maniera così preoccupante come i fatti di questi giorni, assolutamente no. Per cui l'India per noi non rappresenta, non ha mai rappresentato un luogo né di provenienza né un luogo di possibile destinazione di soggetti sicuramente jihadisti individuati nel nostro paese. Quindi questo collegamento ad oggi posso tranquillamente escluderlo. Quindi con la circolazione delle armi con l'Iraq, con l'Afghanistan, l'India non sembra avere per ora collegamenti? Con l'Italia e con l'Europa assolutamente no, con Iraq e con Afghanistan sicuramente vi sono state delle presenze di appartenenti ad aree, questa volta sì, qaediste, che hanno raggiunto il territorio iracheno per fare la propria jihad, per realizzare il proprio drammatico sogno terroristico, ma ripeto, altra cosa è il conflitto iracheno rispetto invece a quei soggetti che abbiamo visto anche nelle nostre vie, anche nelle nostre città, risiedere per poi raggiungere l'Iraq.